Vi racconto una storia che se non fosse successa esattamente come è successa, io oggi forse non potrei essere qui a raccontarvela. Una nave che dal porto di Bari salpa il 28 dicembre e approda a Brindisi. Brinda Capodanno. Riparte la sera del 4 gennaio, scivola lenta sotto la luna sulle onde del Mar Ionio. Destinazione? La Grecia, l'isola di Rodi, possedimento italiano. Eh sì, perché forse non vi ho detto che siamo nel 1942 e Rodi è italiana già da 30 anni. La nave trasporta civili e militari. Nella sala da pranzo della nave, lui, 24 anni, ciociaro, di un paese chiamato Guarcino, dove fanno gli amaretti buoni, è avvolto nella sua uniforme da tenente ufficiale di fanteria, che non ho mai ben capito se è verde, marrone o grigia dalle foto in bianco e nero, con il suo baffo scuro curato, il berretto e gli occhiali da vista con la montatura in osso. Con la sua compagnia è stato mandato a Rodi per difendere la divisione regina e i confini italiani. Nella sala da pranzo della nave, dicevo, lui incontra lei. 26 anni, friulana, maestra elementare. È stretta nel suo vestitino rispettosamente abbottonato, come le hanno insegnato le suore durante i molti anni trascorsi in collegio, dove sono state tutte le sue sorelle. Nell'ordine, la Rosina e la Emma prima di lei, la Carmen e l'Aurora dopo di lei, e l'Anna, no, la Nina no, perché era troppo piccinina. Lei ha ottenuto il posto come maestra elementare. In realtà va a Rodi per raggiungere la sorella Emma, anch'essa maestra elementare, che vive a Rodi già da un anno, perché lei, la Emma, le ha scritto in varie lettere che a Rodi il tempo è bello, si sta bene. Sorella! Cosa ci stai a fare tu a Pola con quel freddo e la bora di Trieste? Vienitene a Rodi, la paga è più alta, c'è il sole. E poi qui si va in giro in maniche di camicia e senza le calze. Lui si chiama Angelo Bianchi, lei Ines Amelia Braides. Saranno i miei nonni. La mattina del 5 gennaio, la loro nave, Calino, si trova a 3 miglia ovest di Capo Ducato, vicino Cefalonia. Il mare è calmo, il tempo è sereno, in poche ore è previsto l'arrivo a Patrasso e molti dei passeggeri ancora si godono il movimento cullante delle onde nelle loro cabine. Quando ad un tratto... Asergè, che è stato? Bisogna che chiamiamo il comando alla radio. Deve essere una varia del motore. Ma quale motore? Ma non lo vedi che sta affondando? Allarme! Allarme! La nave città di Palermo che viaggia accanto a quella dei miei nonni viene spaccata in due e inghiottita dai flutti. 7 minuti, 700 morti. Un siluro? Oh, Santa Maria, salvaci tu! Capità, che famo se è meglio che se buttamo da poppa o da prua? Indossate i giubbotti di salvataggio! Agnus dei quitolli, speccata mundi, parce nobis domine! Tirare la nave! Agnus dei quitolli, speccata mundi, exaudi nostri! A tutto vapore! Agnus dei quitolli, speccata mundi, miserere nobis! Patrasso! Laggiù! È Patrasso! Santa Madonina, che spavento! Quando che torno a Venezia te prometto che te porto un cero grande come questa nave, ciò. E finalmente, Rodi. I passeggeri sorridenti scendono. Il tenente Bianchi saluta cordialmente la signorina Braides, convinto che non avrà occasione di rivederla. Rodi non è grande, ma si sa, c'è la guerra. E invece, dopo una quindicina di giorni, mio nonno ottiene un permesso e dalle montagne scende a Rodi città si ricorda che mia nonna è alloggiata dalle suore all'ospizio Ducci e la va a trovare. E così i due si frequentano, si piacciono, si fidanzano. Trascorrono insieme il Natale. E dopo meno di 2 anni, perché all'epoca non si perdeva tempo, decidono di coronare il loro amore. Per celebrare il matrimonio scelgono una bella mattina di fine estate, l'8 settembre del 43. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Cosa gadito? Mo che bisogna cessare il fuoco contro gli alleati, mi pare. Cessar fuoco? Ma allora è finita la guerra? Già finita la guerra? È finita la guerra? È finita la guerra? Possiamo tornare a casa? Mamma, stiamo tornando! Si torna in Italia! Si torna in Italia! Viva! Viva l'Italia! Sì, ma noi altri, con i tedeschi, cos'è che facemo adesso? Che quelli son qui, che fino a ieri sera giocà a carte insieme? Aspettiamo gli ordini. Mo te pare che non ci arrivano degli ordini da eseguire? Arriveranno degli ordini. Aspettiamo gli ordini. E infatti, eccoli, arrivano gli ordini. Non arrivano a tutti, solo a quelli che hanno una radio funzionante. Ma arrivano. Sono ordini anomali trasmessi per radio la notte successiva all'8 settembre. Arriva finalmente la direttiva del promemoria numero 2, rivolta proprio alle divisioni impegnate nei Balcani a stretto contatto con l'esercito di Hitler. La direttiva parte dal ragionevole presupposto che si possa arrivare a un accordo con i tedeschi. Perché no? Belli gli occhi neri, sarà belli gli occhi blu, ma le gambe, ma mando superiore forze armate Egeo. Sì. Assumere verso i germanici atteggiamento che si riterrà più conforme alla situazione. Tutte le truppe di qualsiasi arma reagiranno immediatamente ed energicamente ed senza speciale ordine ad ogni violenza armata germanica, in modo da evitare di essere disarmati ed sopraffatti. Non deve però essere presa iniziativa di atti ostili contro i germanici. Potessi avere 1000 lire al mese. C'è una terribile confusione. Nemici che si trovano improvvisamente alleati, alleati che si trovano improvvisamente nemici. Dalla direttiva alcuni hanno capito che devono accettare il disarmo, altri che devono opporre una tenace resistenza, a Cefalonia per esempio. Gli ufficiali italiani e i soldati si oppongono ai tedeschi, dopo giorni di combattimento finiscono le munizioni, si arrendono e per ordine diretto di Hitler vengono fatti fucilare più di 5.000 uomini. Gli ufficiali italiani sono allo sbando, ma si trovano di fronte tedeschi che sanno esattamente che cosa devono fare, perché da tempo hanno ricevuto delle direttive loro. Così, nel caso gli italiani tradiscano, i tedeschi sanno che devono occupare aeroporti, stazioni ferroviarie, vie di comunicazioni, porti e zone costiere. Agire con la forza dove sono in maggioranza e con l'inganno dove vi è una superiorità numerica italiana. Lasciare armati ed inserire in unità tedesche o della Repubblica Sociale coloro che si dichiarano fedeli all'alleanza. Fucilare chi oppone resistenza. Ma soprattutto devono portare forza lavoro in Germania. E gli italiani che si ostinano a non collaborare con i tedeschi sono un serbatoio prezioso di mano d'opera che in questo momento comincia pericolosamente a scarseggiare. Ed è vero, perché al momento dell'armistizio le divisioni italiane che si trovavano fuori dal territorio nazionale erano 35. E voi direte, 35 divisioni, che vuoi che sia? Ora, io non so quanti di voi abbiano dimestichezza con le gerarchie militari. Io non ne ho. Però mio nonno mi spiegava che una compagnia è composta da 100-200 uomini. Tre o quattro compagnie formano un battaglione. Due o tre battaglioni formano un reggimento. Due o tre reggimenti formano una brigata. Due o tre brigate formano una divisione. 35 divisioni. Grazie. 35 divisioni voleva dire che al momento in cui è stato reso noto l'armistizio, circa 650.000 soldati italiani si trovavano da qualche parte nel Mediterraneo a braccetto con i tedeschi. Mio nonno prova a nascondersi, ma in un'isoletta piccola come Rodi, dove ti vuoi nascondere? E così viene preso e messo in un dulag, un centro di raccolta in attesa di destinazione. E mia nonna resterà a Rodi fino alla fine della guerra. All'interno del dulag, ogni soldato riceve un fogliettino con sopra scritta una dichiarazione d'impegno che suona più o meno così. Aderisco all'idea repubblicana dell'Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi nel costituendo nuovo esercito italiano del Duce senza riserve, anche sotto il comando supremo tedesco contro il comune nemico dell'Italia repubblicana fascista del Duce e del grande Reich germanico. Firma data. Stare con i tedeschi e Mussolini o con il re e gli alleati? Ciascuno deve decidere per sé. Sier colonnello, cos'è che dovemo far? Ognun per sé, Dio per tutti. Mio nonno non firma, sceglie il re. E in poco tempo viene imbarcato su un piroscafo perché l'ordine del comando della Wehrmacht è quello di effettuare il trasferimento degli internati utilizzando tutti i mezzi disponibili, anche mezzi non idonei, anche a costo del pericolo di perdere navi ed internati militari. E infatti, nel viaggio verso la Germania calano a picco piroscafi, motovelieri, navi da carico, motonavi, torpediniere, e vanno giù Donizetti, Margherita, Leda Petrella e Ori. Giulia Simpra, Rosselli e Dalma, Donizetti, Margherita, Leda Petrella e Oria Simpra, Rosselli e Dalma, che trasportavano 20.000 militari italiani. Di nuovo il mare risparmia mio nonno, che raggiunta la terraferma viene stivato assieme ad altri 69 compagni nel vagone di una tradotta, di quelli che possono contenere cavalli 8, uomini 40. Così cantano i soldati italiani e vengono scaricati tra le cimici e i pidocchi degli oltre 70 campi di internamento tra Germania e Polonia. Gli Stalag, campi principali per prigionieri, gli Oflag, campi per ufficiali. Mio nonno sarà ospite di 3 di questi campi. Kustrin, Stammlager terzo C, Sambostel, Stalag 10B, Witzendorf, Oflag 83. Arrivano in Germania e vengono subito divisi, da una parte i soldati, dall'altra gli ufficiali. I soldati a lavorare nelle campagne e nelle fabbriche in città, gli ufficiali segregati in appositi campi, gli Oflager. Ad accoglierli al primo campo c'è un certo generale, era un nobile, infatti aveva il suffisso in von, si chiamava infatti von... Vatte la pesca! Von Vatte la pesca! Così lo chiamava mio nonno, che non si ricordava il nome, von Vatte la pesca, che li saluta dicendo: voi non siete prigionieri, voi siete ospiti dei tedeschi. Mio nonno e i suoi compagni capiranno il significato di queste parole solo dopo, molto dopo, nel 45, dopo la liberazione, quando verranno a scoprire che a soli 9 chilometri dal loro campo c'era un campo di sterminio, Bergen-Belsen. Su una cosa comunque il generale aveva avuto ragione. I soldati italiani catturati dopo l'8 settembre non erano dei prigionieri. Erano stati infatti qualificati con un nome nuovo, un nome inventato apposta per loro. IMI, internati militari italiani. Ed erano cioè coloro che, non avendo firmato la dichiarazione di impegno, erano considerati traditori, resistenti e in sostanza prigionieri, sì, ma volontari. IMI. Qualcuno ha mai sentito questo nome? Io, prima che me ne parlasse mio nonno, no. Infatti sui libri di storia del liceo non c'era, perché la storiografia ufficiale per decenni li ha ignorati e anche molti di coloro che riuscirono a tornare in Italia non hanno voluto parlare per vergogna. Per vergogna perché al loro ritorno in Italia non erano considerati né carne né pesce, cioè in sostanza né rossi né neri. Che poi mio nonno diceva che questo nome era solo una finzione giuridica per aggirare la Convenzione di Ginevra, perché chiamandoli così i tedeschi non dovevano sottostare a nessun regolamento e gli IMI non godevano di nessun diritto. L'Italia li dimenticò e persino la Croce Rossa Internazionale non poté occuparsi di loro perché la qualifica di internati militari era nuova e non contemplata. La maggior parte degli ufficiali presenti al campo aveva tra i 20 e i 30 anni. Erano giovani. Vivevano quel periodo della vita nel quale maturano gli interessi, nascono le consapevolezze, gli amori. Al campo, assieme a mio nonno, c'era il futuro attore Gianrico Tedeschi, il futuro segretario del PC Alessandro Natta, c'era Tonino Guerra, c'era Mario Rigoni Stern appena tornato dalla campagna di Russia. E con la piastrina numero 6865 c'era un certo Giovannino Guareschi che scriverà così: ci stivarono in carri bestiame e ci scaricarono, dopo averci depredato di tutto, tra i pidocchi e le cimici di lugubri campi, vicino a ognuno dei quali marcivano nel gelo delle fosse comuni decine di migliaia di altri uomini che prima di noi erano stati gettati dalla guerra tra quel filo spinato. 31 ottobre 1943. Molti dei cappotti russi distribuiti ai meno abbienti hanno una piccola toppa sul petto o sulla schiena. Una piccola toppa rotonda che chiude il buco attraverso il quale entrò una pallottola e uscì un'anima. Il mio cappotto ha una piccola toppa proprio in corrispondenza del cuore ed è ben cucita e di panno spesso, ma dal forellino che essa copre entra un sottile soffio di aria gelida, anche quando non c'è vento e il sole è tiepido, e il cuore duole, trafitto da quello spillone di ghiaccio. La patria si affacciava ogni tanto alla siepe di filo spinato ed era vestita da generale, ma sempre veniva a dirci le solite cose, che il dovere e l'onore e la verità e il giusto erano non nella volontaria prigionia, ma in Italia, dove petti di italiani aspettavano le scariche dei nostri fucili. Fummo peggio che abbandonati. Ma questo non bastò a renderci dei bruti. Con niente ricostruimmo la nostra civiltà. Sorsero i giornali parlati, le conferenze, la chiesa, l'università, il teatro, i concerti, le mostre d'arte, lo sport, l'artigianato, le assemblee regionali, la borsa, gli annunci economici, la biblioteca, l'industria, il centro radio clandestino. Le baracche sembravano vagoni interrati nella sabbia fino al piano del pavimento, una dietro l'altra, un convoglio annegato nell'arena. Baracca 18. Una piccola arca di Noè navigante in mezzo a un diluvio di malinconia. E dentro ogni specie di esseri, dalla pulce al poeta, dal topo al parastatale. I baracconi, quelli a stanzone unico, con 280 persone che dormono nelle lettiere a tre strati, con tutti quegli stracci e quella mercanzia che pendono dal soffitto, danno l'idea delle famose baracche dei cercatori d'oro. E ci si aspetta che da un momento all'altro una ballerina salti su un tavolo e cominci a sculettare. Ma non succede niente di tutto ciò. Soltanto la gente che attorno ai tavoli pesa le razioni di patate come peserebbe pepite d'oro. Al campo la vita degli uomini scorreva inesorabile, così come inesorabile scorreva la cinghia nei passanti dei loro pantaloni. Ogni tanto arrivavano nuovi ospiti da altri campi. Erano aggiornatissimi, sapevano già tutto, per uno strano miracolo grazie al quale in ognuno dei 70 campi di internamento la minestra si chiamava sbobba, le sigarette si chiamavano zampironi e l'operazione di abbrustolimento del pane era detta crostinare. Gli ufficiali italiani, che non aderivano alla Repubblica Sociale ed erano la maggioranza, non erano tenuti a fare nulla, solo aspettare, cercare di resistere al freddo, alle malattie, alle umiliazioni, ma soprattutto alla fame. Altro che ansia di libertà, diceva mio nonno. E quello è un concetto astratto. Noi avevamo l'ansia del mangiare, l'ossessione del cibo. Le razioni giornaliere erano le seguenti. Al mattino, tè, che poi non era tè, era atiglio. Di quello potevi averne quanto ne volevi, se avevi un recipiente adatto, che poi, essendo molto caldo la mattina, potevi usarlo anche per farti la barba e lavarti i denti. Mezzogiorno. Pane, 50 grammi. Zuppa di rape, un piatto abbondante, ma tanto erano rape e acqua, rape da foraggio grandi così. Margarina, 15 grammi. Zucchero, 15 grammi. Se eri fortunato, nella zuppa di rape poteva capitarti un nervetto. Una volta alla settimana un cucchiaio di marmellata, che doveva essere colorata all'anilina, diceva mio nonno, perché andavano a urinare, era tutto rosso. Qui ci hanno avvelenato! Ogni baracca mandava un addetto a prendere il cibo per tutti i prigionieri. Poi, all'interno della baracca, avveniva il razionamento. Questa era un'operazione molto delicata. Il razioniere, o tagliatore, o ufficiale divisore, faceva le porzioni, che venivano pesate in apposite bilancine di precisione. Queste bilance erano state studiate dagli ingegneri presenti al campo e il giogo era composto da una sottile lametta da barba in modo che l'attrito fosse pressoché nullo. Si pesava tutto, anche le molliche. Al razioniere subentrava la commissione di pareggiamento. La commissione, presi in esame i singoli mucchietti, si occupava del trasferimento di rancio affinché le porzioni risultassero identiche non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. E a questo punto si poteva mangiare. Penserete voi? No. Perché pur servendosi di bilance, di calibratori, di misurini campionati, di doppio decimetro, di squadra e di regolo calcolatore, risultava praticamente impossibile dividere in parti esattamente uguali un cubetto di margarina e una patata. In questo modo si poteva al massimo raggiungere un'approssimazione al grammo. Ma il milligrammo sfuggiva allegramente. E la giustizia è fatta appunto di milligrammi. Così, un giorno, un ignoto benefattore inventò la figura dell'acquiquestiere. L'importante personaggio, trattasi di gentiluomo al di sopra di ogni sospetto, si insediava gravemente. Passava in rassegna con sguardo penetrante gli ufficiali che gli stavano di fronte muti ed immobili come una marmorea allegoria della giustizia corporativa. Ne sceglieva uno e lo faceva rivolgere con il viso alla parete e le spalle al tavolo. Poi cominciava a indicare a caso uno ad uno i mucchietti di rancio. «A chi questo?» chiedeva severamente. «Al tenente Bruscoli!» rispondeva quell'altro pronto, senza spostarsi di un millimetro dalla parete. «A chi questo?» «A Tizio!» «A chi questo?» «A Caio!» «A chi questo?» «A Bianchi!» che poi era mio nonno. Ed ecco lì, assegnate le razioni. nonostante tutte le pesature e tutti i calcoli, ognuno era convinto di aver avuto la parte peggiore. Ah! E ci me l'aveva dice a me! Eppure io ci mi hanno fregato! Ah, chi questo? Le nostre giornate sono da mesi e mesi sature di questo interrogativo. Per ogni cosa che entri in baracca c'è un acchiquestiere pronto a insediarsi al tavolo della giustizia distributiva. Niente sfugge all'acchiquestiere, eccettuata una sola cosa finora. Ma non mi meraviglierei se domani vedessi l'acchiquestiere impadronirsi del pacchetto di posta in arrivo e lo sentissi gridare: a chi questa lettera? A chi questa cartolina? Un giorno l'acchiquestiere rivedrà la sua città, la sua casa, la sua famiglia. Rivivrà di nuovo la vita di tutti gli uomini e per lui sarà tutto un seguito di interrogativi. A chi questo treno? A chi questo tassì? A chi questo ascensore? A chi questa moglie? A chi questo stipendio? A chi questa gita in automobile? A chi questo colpo apoplettico che mi ha colto improvvisamente? A chi questo funerale? A chi questo paradiso? A chi questo giudizio universale? A me! A me! A me! Amen! Passavano l'intera giornata a prepararsi i minuziosi pranzetti, abbrustolendo, sminuzzando, spolverando, friggendo, bollendo, assaggiando, aspettando. C'erano quelli che si rifugiavano nei sogni, perché non tolleravano il grigio di una vita fatta di cicche, di grammi, di miseria, e l'unico capace di portarli al di là del reticolato era appunto il sogno. C'erano quelli che si rifugiavano in conferenze, lezioni universitarie, discussioni storiche, artistiche, politiche, culturali, sportive, storiche, artistiche, politiche, culturali, politiche, religiose, sportive, artistiche, culturali, sportive. Per dare un po' di ossigeno al loro spirito, circondato dall'aria limacciosa del lager. E quello era istinto di sopravvivenza. C'erano alcuni che passavano l'intera giornata a riempire fogli di schizzi, di disegni, di mappe dettagliate delle loro case, pensando a dove mettere un nuovo comò, a dove mettere un camino, a dove spostare un letto. E quella era nostalgia. Ce n'erano alcuni che... Beh. tentennavano nell'indecisione e passavano le giornate vagando di baracca in baracca, di letto in letto, a chiedere pareri sulla situazione presente. Scusa, dico te. Io? Sì. Tu che pensi di... Ma per quella cosa... Della aderisci, firmi o... Ma aspetta che lo chiedo a lui. Lui? Sì. Scusa? Scusa. Tu che fai? Hai deciso? Firmi? Ma io firmo, sì. Firma. Tu? Io sempre io. Io firmo. No, io no. No, infatti neanche no, io. No, perché pensavo che firmo, non firmo. Comunque c'è un po' di confusione. No, poi se firmi magari ecco ti mandano in Italia. Magari capita che vai a casa e c'è la mamma. Mamma. Firmo. Ritiro. Rifirmo. Ritiro. Rifirmo. Ritiro. Rifirmo. Ritiro. Rifirmo. Ritiro. E quella era debolezza di carattere. Poi però c'erano quelli che facevano la cosa peggiore. Passavano tutto il giorno parlando esclusivamente di mangiare, descrivendo pranzi, pranzetti, cenette, merende, panini imbottiti, raccogliendo indirizzi di locande e compilando guide gastronomiche d'Italia. Il loro continuo e vano parlare di cibo aumentava il loro desiderio e il loro stomaco assumeva le dimensioni del desiderio stesso. Questi poveretti diventavano gialli prima degli altri, più per la paura della fame che per la fame stessa. E questa era pazzia. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu, ma le gambe, sono belle ancor di più, sono belli gli occhi azzurri, ho fatto un sogno, ma che sogno, era buona, era grassa, era soda, era tonda. Una coscia. La coscia di prosciutto più bella che ho visto in vita mia. È così. Quando si ha fame, i desideri dell'uomo sono regolati da una strettissima gerarchia. L'erotismo si annulla. È così. Il sogno, il regno delle donne, viene usurpato quando si ha fame da prosciutto, pane, uova, uva, fette di formaggio. È così. L'erotismo però si annulla. Ma la galanteria? Quella è un'altra faccenda. Una mattina di ottobre del 1944 arrivano al campo confinante donne polacche di ogni età. Bambine, ragazze, adolescenti, donne incinte. Erano state catturate durante l'eroica insurrezione di Varsavia. Male stiamo! Ha detto un giorno il comandante Brignole. Ma peggio stanno le donne polacche. Donne in stato interessante, donne con bambini. Tratteniamo dalla nostra razione 3 grammi di pane, 1 grammo di margarina e 1 di zucchero. E che ti accorgi tu? Però, per 10.000 che siamo, fanno 30 chili di pane, 10 chili di margarina e 10 di zucchero che possiamo regalare. Fu un bel gesto quello, diceva mio nonno tutte le volte che raccontava questa storia. Un gesto che riuscirono a ripetere 2 o 3 volte, arrivando perfino a cedere la loro razione settimanale di marmellata. Uomini d'altri tempi. Arriva finalmente il Natale del 1944. Mio nonno e i suoi compagni sono stufi, non ne possono più, vorrebbero anche loro festeggiare con una torta. Una torta al campo. E la faranno una torta al campo, che poi in realtà mio nonno di torte ne ha continuate a fare per tutta la vita. Torte da avere sempre pronte all'occorrenza per figli, nipoti e ospiti. Torte spartane, un po' massicce, ma efficaci. Iniziano a mettere da parte gli ingredienti, sempre gli stessi. Un po' di galletta, chi ce l'aveva, un po' di margarina, un po' di zucchero. Poi, la mattina del 24, si procede ai lavori. Dentro un catino, sì, dove magari ci si era lavato il muso e i piedi qualcuno, ma mio nonno garantiva che fosse stato lavato, mettono a macerare la galletta con il tiglio. La galletta è un tipo di pane duro che se tu lo metti in un contenitore con del liquido, quello si espande tutto fino a raggiungere l'intero perimetro. Il comandante di compagnia dirige i lavori. Un altro comincia a battere in una gavetta margarina con lo zucchero. Stette tutto il giorno. Il comandante cominciò a mettere nel catino uno strato di galletta, uno strato di marmellata, un altro strato di galletta, poi un altro strato di marmellata, un altro strato di galletta, poi margarina e zucchero, che era la crema, insomma. Poi un altro, fino a ottenere un affare alto così. Nonno, era buona la torta? Il dolce migliore che ho mangiato in vita mia. Non ho mai mangiato un dolce così buono. Ma quando finisce questa benedetta guerra? La mattina del 13 aprile finisce. Almeno per i prigionieri di Wietzendorf, che al loro risveglio trovano le torrette deserte. Niente più sentinelle pronti a sparare con il mitra a chiunque si avvicini troppo al reticolato. Erano liberi. Che poi mio nonno diceva, quando ci hanno liberato? Cioè, quando abbiamo ricominciato a mangiare. Perché gli alleati, arrivando al campo, avevano fatto sgombrare un paese completamente dalla popolazione civile per poterlo mettere a disposizione di tutti i prigionieri. E mio nonno esce dal campo con i suoi compagni e si vede arrivare incontro uomini, vecchi, bambini, donne, con carriole, con carretti, con bagagli. Bergen si chiamava. Bergen era il paese della cuccagna. C'era ogni ben di Dio. Sì, ma dove andiamo? Tutte le case sono vostre. Nell'appartamento dove capita mio nonno c'era tutto. La tavola ancora apparecchiata, la tovaglia, i bicchieri, le posate, le tendine alle finestre. Il camino era ancora caldo. E assieme a mio nonno nell'appartamento capita anche un ufficiale, era un medico, diceva mio nonno, che ammoniva tutti dicendo: andateci piano, che passare dalla fame più nera a mangiare a crepapelle, l'organismo non ce la fa, non si può passare da un pezzettino di pane a una pagnotta da un chilo di farina bianchissima. E infatti aveva ragione, perché molti stettero male e qualcuno ci morì. Questo medico la sera cenava, poi mio nonno si alzava per andare in bagno a mezzanotte e lo trovava che si stava facendo la pasta asciutta, si alzava alle 2 e si stava facendo il risotto. A Bergen nel giro di 2 ore non c'era più una gallina, non c'era più un animale vivo e per i primi giorni non si vedeva nessuno, erano tutti chiusi nelle case a rimpinzarsi ben bene. Poi, dopo qualche giorno, quando si sono abbuffati ed è passata anche la fame arretrata, finalmente sono usciti dalle case per esplorare la zona. Uno spettacolo. 6.000 donne incinte al 9° mese con l'uniforme e i baffi. Ai miei compagni che non tornarono. Sulle strade ferrate corre silenzioso un treno fantasma. È un treno che ha girato per tutte le strade ferrate di Germania, di Polonia, di Russia, di Jugoslavia e ha fatto sosta a tutti i campi di concentramento. Ed è un convoglio che non finisce mai, perché è il treno che porta le anime dei morti in prigionia. Ora corre per le strade ferrate d'Italia e si ferma soltanto quando c'è da caricare l'anima di un ex prigioniero. E quando tra 50 o 60 anni avrà caricato le anime di tutti i reduci, prenderà l'aereo binario che porta dove Dio vuole e nessuno in terra lo vedrà più. Egli sa che un giorno il treno fantasma si fermerà alla stazione del suo paese e anche lui salirà e ritroverà così i compagni perduti. E nell'attesa si consola di ogni anno che passa. Poi riuscimmo a imbarcarci, imbarcammo i soldati, tutto il materiale, 27 muli. Poi è finito finalmente, guardo in sala da pranzo e trovo 2 donne. Io salutai adeguatamente, mi presentai e una era no, la tua futura nonna. Partimmo la sera del 4. La mattina del 5, tra 2 isole Ionie, Santa Maura e Cefalonia. La nave a fianco a noi, un siluro, 7 minuti, 700 morti. E finalmente arrivamo a Rodi. Ah, dopo 15 giorni ebbe un permesso e andai a trovarla. E così, l'8 settembre, Kustrin, Stammlager, terzo C, poi il 10B e poi l'83. Non eravamo prigionieri. E che eravate? Internati militari. No, ospite lo disse, però dovevamo dargli ragione quando sapevamo dei campi di sterminio. Certo. Era una finzione giuridica. L'ossessione del mangiare. Quando dicono l'ansia della libertà, l'ansia del mangiare. E la minestra era un piatto abbondante. 6 giorni alla settimana erano rape e acqua, rape da foraggio, 15 grammi di margarina, 15 grammi di zucchero, una volta alla settimana un cucchiaio di marmellata. Deve essere colorata all'anilina, perché andava a urinare tutto rosso, ci hanno avvelenato. Dei formaggini puzzolenti, con tutto il terrazzo in naso, e poi era andato sempre diminuendo la razione. Dice, a chi questo? E quello diceva, a Bianchi, a chi questo saltando, a chi quest'altro, a Giovanni. Poi con tutte le pesature, con tutte le cose, ognuno era convinto di aver avuto la parte peggiore. La vigilia di Natale del 44, eravamo in 4, no, o 5, mettevamo da parte un po' al giorno, un po' di margarina e un po' di zucchero e un po' di galletta che ce l'aveva. Dentro un gatino magari ci sarà lavata il muso o i piedi, ma l'aveva lavato senza. Sì, certo. Mettemmo dentro questo gatino uno strato di galletta, poi marmellata, poi un altro strato di galletta, poi margarina e zucchero, era la crema insomma, poi un altro insomma veniva a fare così. Buona il dolce migliore che ho mangiato in vita mia, non ho mangiato un dolce così buono.